Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera e benvenuti a Mr. Kilowatt, Maurizio Melis al microfono. Questa sera entriamo in un laboratorio di ricerca del settore farmaceutico, dove il risparmio energetico si deve coniugare con la sicurezza ambientale, quindi un ambiente salubre per i ricercatori e per il personale che ci lavora. Il laboratorio in questione è l'Istituto di Ricerca Biologica e Molecolare di Pomezia, facente parte del gruppo, si tratta di una multinazionale, Merck Sharp & Dohme, dove è stata attuata recentemente una significativa, appunto, ristrutturazione energetica. Ci facciamo raccontare tutto da Luigi Benedetti, direttore tecnico ed energy manager dell'istituto, che è in linea con noi. Buonasera Benedetti. Buonasera a lei. Dunque Benedetti, ci aiuti a visualizzare che cosa vede uno, insomma, quando entra in uno di questi grandi laboratori di ricerca, che cosa si trova intorno? Ma all'interno di un laboratorio troveremo apparecchiature che servono per fare l'analisi dei vari composti. Queste analisi molto spesso vengono fatte all'interno di cappe chimiche o cappe biologiche per conservare la sterilità del prodotto e la salvaguardia della persona. Quando diciamo cappe, sono degli oggetti simili, diciamo, a quelli che abbiamo tutti in cucina, ma un pochettino più sofisticati. Sì, sono cappe che sono dotate di alta filtrazione oppure di abbattimento per quanto riguarda i prodotti che vengono manipolati. D'accordo. Ecco, qual è la principale voce di costo energetico specifica della vostra attività? La principale voce è la ventilazione. All'interno, diciamo, del laboratorio di ricerca esistono delle condizioni climatiche che devono essere garantite anche nel termine della sicurezza della persona o della sicurezza del prodotto. Perché si maneggiano sostanze che possono essere sostanze pericolose che possono essere inalate o entrare in contatto con le persone. Quindi la sicurezza e la ventilazione sono degli aspetti molto presenti all'interno del laboratorio di ricerca. D'accordo. Quanto consumano più o meno, insomma? Il 65% dell'energia, diciamo, consumata all'interno dei laboratori sono per la ventilazione. Ed è questo, mi pare, anche uno dei, come dire, degli oggetti del vostro intervento. Forse è lì che avete fatto l'intervento più grosso e anche più innovativo. Sì. Per quanto riguarda questo, noi abbiamo partecipato a un progetto globale della Merck che riguardava tutti i siti di ricerca e in parte di produzione, dove praticamente è stato, compatibilmente con quelle che sono le normative internazionali e nazionali, una riduzione dei consumi della ventilazione attraverso processi che riguardano sostanzialmente l'automazione integrata all'apertura delle cappe, alla presenza o non presenza del personale all'interno del laboratorio. Quindi abbiamo chiamato questo processo night and day, riducendo anche quelle che erano le temperature all'interno dei laboratori. Questo processo è durato circa 3 o 4 anni e ha portato la Merck a ridurre il 25% dei suoi consumi attraverso non solo questo programma, ma questo programma ha contribuito significativamente alla riduzione del consumo, quindi del 25%. Quindi abbiamo, perché questa ventilazione viene ritagliata secondo le esigenze dell'ambiente, a seconda del numero di persone presenti in quel momento. Quindi esatto. Ci sono anche dei sensori in qualche modo che misurano. Sì, noi abbiamo sensori di, diciamo, di portata, di pressione all'interno dei locali, di temperatura e chiaramente anche di condizione di apertura delle fasce, chiamiamole così, oppure dei vetri in termini molto più normali dell'apertura della cappa. La cappa, se è chiusa, la ventilazione si riduce in proporzione per garantire soltanto il contenimento della cappa stessa. È un livello di automazione significativo, in Italia penso che ce l'hanno poche realtà, ha portato a una riduzione dei consumi del 42%. Mi pare che un'altra operazione che avete fatto è quella di recuperare il calore, perché voi fate girare moltissima aria. Credo che l'aria contenuta in una stanza venga ricambiata addirittura più volte all'ora con questi sistemi, noi vero? Sì, abbiamo ricambi che partono dai 12 ai 40 ricambi ora, a seconda delle condizioni e dei processi in atto o dell'attività. Quindi chiaramente una delle condizioni importanti era quello di recuperare calore attraverso, diciamo, scambiatori posti sui sistemi di estrazione, e quindi abbiamo implementato questa questo processo, anche in accordo con quella che è la legge sul recupero energetico, la 1091. Senta, tutta l'operazione in quanto tempo si ripaga? Nei nostri obiettivi era di avere un payback nell'arco di 3 o massimo 4 anni. Negli RBM, diciamo, la situazione ci ha portato a recuperare gli investimenti e l'impegno. Molto spesso non si tratta di investimenti, si tratta di innovazione applicata nella routine quotidiana, perché ci sono le condizioni per farlo, perché esistono già diciamo le infrastrutture per poterlo fare, e noi abbiamo avuto un ritorno nell'arco di 2 anni e mezzo. Bene, grazie Benedetti. Mister Kilowatt torna domani per commentare come è andato l'eolico nel 2009. Le sorprese, come vedrete, sono positive, anche se non mancano le criticità. Buona serata da Maurizio Melis, a domani.